Linee d'ombra di Matteo Caccia. Vedi un tuo amico che rischia di morire così, è stata dura sicuramente, ce la siamo vista un po' brutta. Siamo arrivati a casa, eravamo sulla bocca di tutti quanti, i genitori. Jeff corse subito in acqua in un tratto poco profondo, ma in una frazione di secondo, probabilmente perché aveva messo il piede troppo in là, scomparve alla nostra vista. Storie di amicizie salvifiche e di amicizie mortali in una puntata che si intitola Amici per la pelle. Chris riuscì ad andarsene. Fece i corsi preuniversitari con me e benché fosse dura per lui, ci mise tutto l'impegno possibile. Arrivò all'università e divenne avvocato. La settimana scorsa entrò in un fast food. Davanti a lui due uomini stavano litigando. Uno estrasse un coltello. Chris, che cercava sempre di mettere pace anche fra noi, tentò di fermarlo. Fu colpito alla gola. Morì quasi all'istante. Benché non lo vedessi da più di 10 anni, so che mi mancherà sempre. Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha? Lo so, non è la prima volta che utilizziamo questo film per aprire una puntata di Linee d'ombra. Questo film è Stand By Me, ricordi di un'estate, tratto dal racconto lungo, dal romanzo breve di Stephen King, in cui 4 ragazzi si avventurano nel bosco alla ricerca del corpo di un ragazzino di cui non si sa più nulla e alla fine lo trovano. Ed è la storia di questo viaggio in qualche modo iniziatico di questi amici che li segnerà per sempre, proprio perché la visione di una persona morta farà in un attimo, li farà varcare quella linea di confine, quella linea d'ombra che separa l'adolescenza dall'età adulta. È un film meraviglioso, è un film che in qualche modo rappresenta addirittura una sorta di giovane Holden cinematografico, per quanto mi riguarda. Un vero e proprio film di formazione per me e credo per moltissime persone della mia generazione. C'è anche, diciamo, non solo guidato da questo film, ma nella letteratura e poi nell'idea comune, c'è l'idea che l'amicizia di quando si è ragazzi, di quando si è ragazzini, non torni più, insomma, sia un'amicizia diversa da quella che si può sviluppare in età adulta, vuoi per il lavoro, vuoi perché in età adulta si incontrano mariti, mogli, si fanno figli, si creano le famiglie, quindi i rapporti cambiano. Io non sono particolarmente d'accordo con questa opinione. Credo che la questione dell'amicizia sia legata alla sensazione che l'errore che si fa, perdonatemi, riguardo all'amicizia, sia legato alla sensazione che l'amicizia vive un po' da sé, cioè che i rapporti sono dati e quindi una volta che sono lì rimangono per sempre. Come sappiamo non è così, perché le lontananze, perché le differenze, le distanze aumentano quei gap tra le persone, e quindi semplicemente le amicizie vanno frequentate, vanno coltivate, anche se delle volte quei rapporti sono richiedenti, cioè richiedono attenzione, richiedono impegno. Però è anche vero che i rapporti di amicizia restituiscono una gioia che i rapporti di sangue non hanno, o perlomeno una gioia diversa rispetto a quella dei rapporti di sangue. Lo dico perché questa è una puntata che è tutta dedicata all'amicizia, nel bene e nel male, lo capirete. Quello che facciamo qui a Linee d'ombra è cercare delle storie che stanno vicine ma non sono simili, e quelle storie che vi raccontiamo oggi, la storia di un'amicizia appunto di gioventù raccontata da Marco, racconta di un confine varcato e per poco, un confine che per poco non diventa fatale, mentre la seconda parla invece di un confine che quel confine viene totalmente passato e l'amicizia va oltre un confine che probabilmente non andrebbe mai varcato, dico mai. Sono due storie diverse appunto perché parlano di un'amicizia, una molto giovane, una invece in età adulta, ma soprattutto che hanno risvolti e hanno conclusioni radicalmente diverse tra di loro. Quindi mettetevi comodi e noi cominciamo. Benvenuti a Linee d'ombra. Nel 9 maggio 1989. L'anno scolastico sta volgendo al termine ed io, come ogni mattina, mi reco alla stazione di Piombino Dese per andare a Castelfranco Veneto, dove frequento la terza classe superiore. Arrivato in stazione, nel posto del raggruppamento solito oltre ai soliti, trovo altri amici che non studiano o frequentano in altre località e subito mi è chiara la situazione. Si prospetta una bruciata collettiva, ossia il gruppetto aveva optato per una gita a Bassano del Grappa invece di andare a scuola. C'erano Mauro, Alessandro, Martino, Jack e soprattutto Jeff, tipo scapestrato e maldestro, e poi Mattia, un po' quello preso in giro da tutti, tipo simpatico e alla fine sempre ben voluto. Proprio questi ultimi due avranno, assieme alle mie scarpe, un ruolo fondamentale in questa storia. Nel periodo del fatto avevamo circa tra i 16 e i 17 anni, visto che siamo tutti del 72-73 all'incirca nella nostra compagnia. Abbiamo avuto un'infanzia abbastanza spensierata, molto all'aria aperta, molta musica, perché siamo ragazzi che sono cresciuti anche, ad esempio, con il Jeff abbiamo fatto gruppo musicale, anche con Mattia e molti altri, Martino, che era un altro che c'era presente, è stato il cantante del nostro gruppo, e quindi insomma abbiamo fatto una buona gioventù, posso dirlo tranquillamente. Arrivati a Castelfranco, io salutai tutti e mi diressi verso la scuola, ma a metà del tragitto, visto che non avevo nulla di particolarmente importante quella mattina, mi feci vincere dalla voglia di fare festa e tornai di corsa indietro, dove venne accolto calorosamente da tutti. L'allegra comitiva, come ci avrebbero poi soprannominato i giornali il giorno dopo, era completa. Arrivati a Bassano ci dirigemmo verso il centro. Passato il ponte degli Alpini, svoltammo a destra verso quella che era la nostra destinazione, ossia la sponda del fiume Brenta, dove in alcuni tratti si aprono dei giardini accoglienti con delle spiaggette di sassi proprio a bordo acqua. Qui trovammo un posticino speciale dove ci accampammo, chi a prendere sole, chi a leggere o a giocare a carte. Io, per stare a mio agio, mi tolsi le scarpe e i calzini e mi misi con i piedi in acqua. Ad un certo punto, però, dovevo tornare indietro e, siccome camminare sui sassi mi faceva male, chiesi a Jeff, visto che era più vicino alle mie scarpe, se poteva passarmele. Le mie parole testuali furono: «Jeff, per favore, puoi portarmi qui le scarpe, ma non lanciarmele, per favore, perché se me le lanci tu le butti in acqua sicuro». Come non detto, la mia richiesta era un invito a nozze per Jeff, che naturalmente mi lanciò una scarpa, che finì in acqua tra le risate generali. Subito io gli dissi: «Ecco, adesso vai a prenderla». Jeff corse subito in acqua in un tratto poco profondo, ma in una frazione di secondo, probabilmente perché aveva messo il piede troppo in là, scomparve alla nostra vista. In quel periodo il Brenta, dato lo scioglimento dei ghiacci, è in piena e il livello dell'acqua è alto, di conseguenza la corrente è fortissima. Subito vediamo il suo corpo trascinato a valle. Qualcuno di noi si mette a correre lungo la sponda. Io ricordo avevo le gambe bloccate dal terrore, forse temevo già il peggio. In un impeto di coraggio, Mattia, che era stato il più lesto di tutti, si getta in acqua pochi secondi dopo, anche se sono sembrato un'eternità. lo vediamo riemergere dove l'acqua è più bassa. Jeff, con nostro grande sollievo, come un pulcino bagnato, è aggrappato a lui e quindi è in salvo. Aiutiamo Jeff a risalire e lodiamo Mattia per il suo gesto eroico. Poco dopo, chiamati da non so chi, arrivano polizia, ambulanza e pompieri e subito si forma un gruppetto di curiosi. Jeff viene preso in consegna dagli infermieri e anche Mattia viene portato al pronto soccorso per fare accertamenti. Sicuramente avevamo avuto tantissima paura tutti quanti, perché avevamo visto la morte in faccia di uno di noi, e io ricordo proprio che avevo le gambe bloccate. Io non riuscivo, avevo corso verso la sponda del fiume anch'io, però mi ricordo che io non avevo le gambe bloccate, non sarei mai riuscito a buttarmi. Penso che forse Mattia proprio sia stato l'unico che ha avuto l'impeto di buttarsi e salvare Jeff, se no, secondo il mio parere, anche quello degli altri, probabilmente sarebbe finita male se non fosse stato per Mattia. Noi cinque rimasti siamo ancora sotto shock. Restiamo in silenzio per un po' di tempo, ma sappiamo tutti che se Mattia non si fosse buttato, Jeff probabilmente non sarebbe qui con noi a raccontare questa storia. Io intanto avevo un problema. Ero senza scarpe e dovevo tornare a casa, così feci una colletta tra tutti e andai in centro a prenderne un paio. Poi andammo in ospedale e trovammo Jeff su un lettino con la flebo attaccata e Mattia seduto a fianco. Ci accertammo delle buone condizioni di tutte e due e, rilassati un po', ci concedemmo qualche battuta per tirare sul morale. I genitori di Jeff e Mattia, avvisati dall'ospedale, erano in arrivo e a noi non restava altro che tornare a casa e subire le conseguenze della nostra bravata. Inutile dire che il giorno dopo eravamo sulla bocca di tutti, sia in paese sia nelle scuole castellane, grazie anche agli articoli di giornale dove, ironia della sorte, a Mattia fu storpiato il cognome in Giorgetto, cosa per cui lo prendemmo in giro nei ricordi della storia gli anni successivi. Lo battezzammo Eroe del Brenta, cantando la canzone degli Litfiba Eroe nel Vento, ma sostituendo il testo. Ora abbiamo solo un buon ricordo di quella giornata, ma tutti siamo consapevoli di come sarebbe finita se Mattia non si fosse buttato in acqua. Intitola Amici per la pelle la puntata di oggi, e la storia che ci ha raccontato Marco descrive molto bene quella sorta di energia che c'è tra i ragazzi, di quelle amicizie che sembrano votate al non finire mai, delle amicizie che probabilmente solo la morte può interrompere, e in qualche modo ci sono anche andati vicino visto quello che è successo. Pronto, ciao Marco, buongiorno. Buongiorno a te Matteo, buongiorno agli ascoltatori. Tu hai avuto veramente paura quel giorno? Beh, quel giorno penso sia stato il giorno più, forse tra i più brutti della mia vita, sì, sicuramente. E non solo a mia, perché è anche dei miei compagni. Senti, ma tu hai mai sentito, come dire, un piccolo senso di colpa quando dici passami le scarpe ma non lanciarmele perché altrimenti le perdi, insomma... Ha qualche piccola responsabilità oppure no? No, probabilmente no, forse non quello, ma sì, perché il Jeff era questo tipo proprio scapestrato, come ti ho raccontato. Che ero talmente sicuro di quello che dicevo che sapevo che andava a finire così. Ah, ok. Senti, che fine hanno fatto quegli amici lì? Li vedi ancora? Li senti? Beh, sì, quasi tutti, anche il Jeff viene, siccome vive in in Canada, però siccome lavoro nel settore agricolo, il mese di gennaio lo passa sempre qua, viene sempre giù un mese intero qua, quindi abbiamo sempre modo di vedersi. Okay. Sì. E come c'è finito in Canada? C'è finito che prima si è trasferito a Londra, che è andato appunto un'altra avventura assieme con, okay, Mattia, sono andati a Londra per imparare qualcosa, a fare qualcosa anche là. Poi da Londra lui è partito, è andato in Australia per prima sei mesi, dopo un anno, e lì ha conosciuto Kylie, che è la sua attuale moglie. Che è canadese? Si sono trasferiti in Canada, ah, sì, okay, si sono sposati, adesso hanno una bellissima bambina di nome Stella. E vive felicemente là, diciamo. Senti, ma Jeff, il nome Jeff per che cosa sta? No, il vero nome sarebbe Emerson. Emerson? Emerson, sì. Però a scuola, quando eravamo a scuola, e c'era un compagno di classe di Emerson, che da Emerson l'ha cominciato a chiamare Jefferson. A quel tempo, ti ricordi, c'erano la serie TV Jefferson? Certo. Allora Jefferson, abbiamo cominciato a chiamarlo Jefferson, e da Jefferson diminutive Jeff, adesso è rimasto certamente. Jeff, sì, per tutti. Certamente, la nascita dei nomignoli hanno delle storie sì. straordinarie. Senti, quindi di fatto Mattia ha letteralmente salvato la vita a Jeff. Sì, nel modo più assoluto. Sì, se non si fosse tuffato lui, no, nessuno ce l'avrebbe fatta, nessuno avrebbe avuto il coraggio di fare. Lui era oltretutto quello più avanzato, diciamo, era quello che aveva corso più in avanti di tutti. È che è stato bravissimo anche a riuscirlo a vedere, perché l'acqua era veramente potente, cioè la corrente era veramente forte, perché in quel periodo là si sciolgono tutti i ghiacci, il Brenta è un torrente. La zona di Bassano, là dove è successo il fatto, insomma, è torrenziale. Ma senti, questa forse dovrei chiederla a loro due o a uno di loro, però lo chiedo a te, visto che ci ha mandato la storia. Questa cosa li ha legati in un qualche maniera particolare, poi? Oppure? Beh, io credo di sì, che comunque il loro legame sarà indissolubile per sempre. Anche se ti dico, sono due poli opposti, comunque, anche se hanno vissuto molte vicissitudini assieme, sono due poli opposti, mm-hmm, e penso che insomma, anche il Jeff continuerà sempre a prenderlo un po' in giro, anche se gli deve la vita. Senti, tu cosa fai adesso nella vita, Marco? Io ho sempre lavorato nell'azienda di famiglia, che abbiamo una ditta che commercia carburanti, abbiamo anche una stazione di servizio dove sono abbastanza impiegato, sempre là, quindi mi dà anche la possibilità di ascoltare le tue storie. Di ascoltare la radio, certo. Sì. Quindi piccola media impresa veneta, quella che porta avanti il paese. Sì, difatti, sì. Marco, senti, ti ringrazio molto per la chiacchierata e per la storia. Ti vai ancora a fare il bagno al fiume? Beh, sul Brenta no, penso se lo fai giù a valle, molto più a valle, sì, è possibile, a Bassano no. A Bassano, poi no, noi qua battiamo a un'ora dal mare, quindi abbiamo la possibilità di andare. È comodo. Marco, molto grazie più comodo, davvero. Più sicuro. Grazie a te. Passa una buona estate, in bocca al lupo per tutto. Anche a te. A presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Thank you. Grazie ancora Marco, e grazie alla sua storia. Arriva l'estate, arrivano i bagni nel fiume e nel mare, e quindi ogni tanto raccontare di episodi come questi forse in qualche modo può aiutare tutti a tenere molto molto alta l'attenzione. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare qui Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta Linee d'ombra. Amici per la pelle si intitola la puntata di oggi, e probabilmente se cercate una risposta alla domanda quanto in là si può spingere un'amicizia, ecco, la prossima storia forse può darvi una risposta, per quanto macabra. Questa storia è accaduta negli Stati Uniti, in California, circa 10 anni fa. State con noi. Poco prima dell'alba di una giornata di una decina di anni fa, uno spazzino che lavora in un quartiere di Los Angeles chiamato Anaheim ha trovato il corpo di un uomo di circa 50 anni a faccia in giù per terra accanto alla sua auto, in un tratto isolato e industriale della zona. L'uomo non era morto da molto tempo. Il sangue si stava raccogliendo intorno alla sua testa e aveva una grossa impronta di scarpa sulla schiena. Il bagagliaio della sua auto era aperto. Un Creek giaceva a terra e una gomma era appoggiata al marciapiede. Faceva davvero freddo ed era in una zona remota, racconta oggi la detective che si è occupata del caso, Yulissa Trapp. Chiamata sulla scena del crimine verso le 4 di quella mattina del gennaio del 2011. Lì non c'è molto, racconta, ci sono i binari della ferrovia, quindi è molto rumoroso, perché il treno passa spesso. Anaheim è a circa un'ora a sud di Los Angeles. È principalmente una destinazione turistica, Disneyland si trova lì. Così come gli Angels dell'American League e i Ducks della NHL. Stessa cosa per il più grande centro congressi della costa occidentale. Milioni di persone visitano quel sobborgo ogni anno. E l'uomo morto era tra quelli. Tutti erano convinti che si trattasse di una sorta di incidente, racconta la detective. Come se l'auto gli fosse caduta addosso o se fosse successo qualcosa mentre stava cambiando la gomma. Ma il corpo accanto alla macchina non era bloccato sotto di questa. La detective Yulissa Trapp è una donna minuta, con i capelli scuri, lunghi fino alle spalle, un sorriso caldo e coinvolgente, che sembra cozzare con la sua esperienza pluriennale e la sua bassa tolleranza per le menzogne. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera investigativa tra bande e crimini familiari. Questo però è il suo primo omicidio, sempre che si tratti di omicidio. Per ora è stata dichiarata solo come morte sospetta, nonostante lei ha pensato quasi subito che non potesse essere una morte sospetta. La testa e i capelli dell'uomo erano coperti di sangue. Chiaramente c'era stata una sorta di trauma, ma era difficile dire esattamente che tipo di trauma. Un oggetto contundente, una brutta caduta, un colpo di pistola. Sulla scena di un crimine spesso non è immediatamente evidente quello che è accaduto. Non c'era un portafogli sul corpo né un documento d'identità. La macchina invece era a noleggio. La polizia di Anaheim ha tirato fuori i registri e presto il morto ha avuto un nome. Si chiamava Yeon Woo Lee, un turista in visita dalla Corea. La Trapp ha fatto una ricerca nel passato dell'uomo e ha scoperto che aveva già visitato Anaheim. In realtà aveva una sorella che viveva nelle vicinanze. Dai registri delle auto a noleggio risultava il nome del motel dove alloggiava. Mentre la detective si dirigeva lì, ricevette una chiamata dal medico legale. Una radiografia aveva rivelato un proiettile conficcato nella testa di Lee. Ora sì, che stava lavorando ad un omicidio. We'll be right back. La vittima aveva indicato un contatto di emergenza sul contratto di noleggio dell'auto e quella persona rispondeva al nome di Beong Kwon Cho. C'era incluso anche un numero di cellulare del posto. La polizia ha iniziato quindi a cercare i tabulati del cellulare di Cho e la detective ha mandato due dei suoi uomini a casa del tizio. Quando si sono presentati, lui ha confermato che il numero di telefono fosse il suo e che conosceva Lee, ma che non lo sentiva da qualche giorno. Ha però accettato di aiutare la polizia, si è persino recato in auto alla stazione di polizia. I detective non hanno detto a Cho, però, che Lee, il suo amico, era morto. Mentre Cho si dirigeva alla stazione, la detective ha sentito i suoi due colleghi della scientifica, che lei chiama affettuosamente i guru del cellulare. Dai tabulati risultava che il signor Cho era sulla scena del crimine quando era morto lì. E questo cambiava totalmente le cose. Il signor Cho però non era quello che la detective si aspettava. Non sembrava uno che avesse commesso un omicidio solo 24 ore prima. Era un uomo coreano tranquillo, timido, sulla cinquantina, di corporatura esile, desideroso di aiutare la polizia. Parlava un po' d'inglese, ma lei si era comunque portata dietro un traduttore coreano. Sul momento si è rifiutato di avere un avvocato e, racconta la detective, ha iniziato a mentire praticamente subito. E non era un buon bugiardo. Cho ha raccontato di non avere parlato con Lee da giorni, ha supposto che Lee avesse fatto un breve viaggio in Messico o fosse tornato a casa, in Corea. All'inizio la detective è stata molto paziente, suggerendo che forse c'era stato un incidente, incoraggiando Cho a dire la verità. Ma dopo circa un'ora ha cambiato tattica e, a un certo punto, senza mezzi termini, gli ha chiesto: quante volte ha sparato al signor Lee? Quell'uomo non ha avuto bisogno della traduzione. Sapeva esattamente di cosa stavo parlando, ha dichiarato la detective. E poi ha chiesto di nuovo: quante volte ha sparato al signor Lee? A quel punto il signor Cho ha chiesto una pausa. Posso fumare una sigaretta? Ha chiesto. E poi dirò tutto. Trapp gli ha detto di no. Prima parla, gli ha detto. E poi facciamo la pausa. Cho ha ammesso che lui e il suo cellulare erano effettivamente sulla scena del crimine, la sera prima, quando Lee era morto. Ma non era stato un omicidio, ha detto. È stato un suicidio. Per circa 6 mesi, ha raccontato il signor Cho, quando ancora Lee era in Corea, mi chiamava dicendo che doveva chiedermi un favore. E poi finalmente un giorno me lo ha detto. Cho aveva intenzione di morire e da anni chiedeva a qualcuno di aiutarlo. Nel 2004 Cho si era trasferito negli Stati Uniti. I due amici si vedevano meno di frequente, ma erano rimasti comunque amici. Lee visitava Los Angeles una volta all'anno, a volte rimanendoci per settimane. Andava a trovare sua sorella, che viveva nelle vicinanze, e anche Cho. Lee però era depresso, e la depressione persisteva. La sua attività commerciale era fallita, il suo matrimonio stava finendo, e sua moglie e i suoi figli si erano trasferiti in Nuova Zelanda. Lee era molto affezionato a sua madre, che lui chiamava una grande montagna su cui potersi appoggiare. Ma quando lei morì, circa 10 anni prima, Lee fu a pezzi. Disse che non poteva vivere, si sentiva molto solo. Quando Lee si era recato negli Stati Uniti, alla fine del 2010, aveva sollevato nuovamente l'argomento del suicidio con il suo amico. Ma non voleva farlo da solo. Se Lee si fosse ucciso, avrebbe portato vergogna e infamia alla sua famiglia, poiché il suicidio, in Corea, è considerato un peccato contro gli antenati. In più, Lee aveva un'assicurazione sulla vita che il suicidio avrebbe annullato. Cercava qualcuno che lo uccidesse. E così, in nome della loro amicizia, alla fine, il signor Cho lo ha fatto. Ma in nome della legge, ancora oggi, il signor Cho è in un carcere degli Stati Uniti a scontare una pena per omicidio. Sign of the judgment. It's a sign of the judgment. It's a sign of the judgment. In questa puntata che si intitola Amici per la pelle vi abbiamo raccontato questa storia, una storia ancora molto più complessa, molto più lunga. Se avete voglia, noi l'abbiamo letta su Narrativli e lì la potete trovare anche voi. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale. Linee d'ombra. Lunedì abbiamo cominciato una nuova storia seriale, l'abbiamo cominciata grazie al lavoro che Mauro Pescio sta facendo con l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che ci ha concesso i nomi e i contatti della protagonista di questa storia. La protagonista di questa storia si chiama Antonina Azzoti. Suo padre era un sindacalista siciliano che lavorava per la distribuzione delle terre in Sicilia. Parliamo del 1946, poco dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, quella storia è una storia che parte là, parte una notte pochi giorni prima di Natale. La stiamo raccontando da lunedì e sono veramente tre puntate angosciose, perché raccontano la storia di una giovane donna, o meglio, di una bambina, di una bambina di 4 anni, che si sveglia nel cuore della notte dopo aver scoperto e aver detto al fratello di aver scoperto quali saranno i regali di Natale che i genitori faranno loro, cioè un cappello per lui e un cappottino rosso per lei. Sono entusiasti di questa scoperta. Quando si è bambini queste cose, chissà perché, in tutti i modi vogliamo rovinare le sorprese, che sono poi una delle parti fondamentali della vita, dell'esperienza di quando siamo bambini e non solo. E invece niente, c'è sempre questo desiderio di mia sorella lo faceva, apriva tutti i pacchetti regalo che c'erano sotto l'albero e aveva un'arte straordinaria nel riattaccare lo scotch dei pacchi là dove era stato attaccato senza lasciare traccia. Ebbene, lei non fa questa cosa, ma scopre appunto quali sono i regali, poi torna a dormire e nel cuore della notte viene svegliata da delle urla, è la voce di sua madre che urla il nome di suo padre. Ebbene, lì comincia una storia drammatica che porterà la sua famiglia, quello che rimane della sua famiglia, cioè sua madre e suo fratello, a vivere nella vergogna per il fatto che suo padre è stato ucciso. Solo più tardi lei riuscirà a uscire allo scoperto, scriverà questo libro, che è questo diario che verrà poi, che vincerà il premio Pieve Saverio Tutino del 2004, e diventerà un libro che si intitola Ad alta voce, di Antonina Azzoti. Mauro l'ha sentita e continuiamo a raccontare la sua storia. Rividi la mamma 2 giorni dopo, al suo ritorno dall'ospedale civico di Palermo, dove aveva assistito papà. L'agonia di papà cessò la mattina del 23 dicembre del 46. Tornarono insieme a casa, ma lui era dentro una cassa, chiusa per sempre. Avevo visto la mamma che volteggiava questo cappottino rosso sotto la lampada, ed era rosso, e aveva del revers di pellicetta grigia sui polsi e anche nel collettino. Ed ero rimasta ammirata, dicevo: che bello. Io non lo indossai quel cappottino rosso, lo vidi soltanto perché prima di indossarlo la mamma lo tinse di nero. Mamma tinse di nero il mio cappottino rosso. Non era certo più un bel cappottino come io l'avevo visto. Aveva fatto un bagno nell'acqua bollente, quindi la pellicetta era diventata strapazzata, il cappottino aveva perso la sua bellezza. Quegli spari che ci avevano strappato papà per sempre erano stati anche un attentato alla nostra sopravvivenza e al nostro futuro. Papà non c'era più. E non perché malato, vecchio o sofferente. No, altri uomini avevano deciso la sua fine rubandola alla vita e a noi. Pinuccio, a soli 6 anni, doveva diventare un uomo, perché papà non c'era più. Che cosa aveva fatto? Per quale motivo l'avevano ucciso? Queste domande ognuno di noi se le poneva, ma non le faceva. Temevamo di farci altro male, di ferirci a vicenda. Tutti si conoscevano, tutti si conoscevano. I contadini guidati da mio padre erano con lui quel giorno in cui il gabellotto lo ha minacciato, e hanno testimoniato, hanno riferito di queste minacce presso la caserma, e indirizzavano la ricerca dei mandanti. Dicevano: è successo questo e questo davanti a noi, è lui il mandante. Anche gli esecutori hanno fatto nomi anche degli esecutori, perché addirittura c'era uno che zoppicava scappando, lo hanno visto, lo hanno riconosciuto perché era uno claudicante, che in paese era conosciuto, non claudicante per un incidente improvviso, ma perché era così, claudicante di nascita. In un paese di 2500 abitanti come Baucina si conoscevano tutti, tutti sapevano tutto di tutti. A rendere ancora più violenta quella realtà concorre il fatto che i mandanti, esecutori e vittime si conoscevano fin da bambini. ma né il mandante né gli esecutori di mio padre furono perseguiti. Gli fu dato tutto il tempo necessario perché si potessero costruire un falso alibi e nessuno pagò. Il suo delitto venne archiviato in fase istruttoria per insufficienza di prove. All'epoca mafia, agrari, politici, magistratura, forze dell'ordine e chiesa erano tutti quanti tutti d'accordo. È successo per la strage di Portella della Ginestra, per Placido Rizzotto, per Salvatore Carnevale e per altri 70 tra sindacalisti e contadini, ed è successo anche per mio padre, Nicola Azzoti. Per nessuno di loro fu fatta giustizia. Allora il primo ministro democristiano, Mario Scelba, diceva pubblicamente che quegli omicidi non erano omicidi politici, ma episodi isolati dovuti a regolamenti di conti, a vendette private, dovuti al sangue caldo dei siciliani. E di questo parere era anche la Chiesa. Il cardinale Ruffini, che è stato a capo della Chiesa siciliana per quasi 25 anni, diceva che i mali della Sicilia erano il Gattopardo, Danilo Dolci e chi si era inventato l'esistenza della mafia, che metteva in cattiva luce tutta la Sicilia. Pensa che a papà, come al 95% dei sindacalisti uccisi, furono negati funerali in chiesa. L'arciprete spruzzò un pochino d'acqua a distanza all'indirizzo della bara mentre il corteo portava a spalla papà al cimitero e poi fuggì via, sordo a tutte le implorazioni che la mamma gli faceva perché avrebbe voluto il suo colo accolto in chiesa per l'ultima benedizione. Ma la mafia non uccide soltanto fisicamente, la mafia uccide anche moralmente. Noi familiari siamo stati costretti al silenzio. La mentalità mafiosa era così accettata e radicata che il pensiero comune dopo il delitto fu «peggio per lui che non si è fatto i fatti suoi». Se non si fosse messo in mezzo a quest'ora sarebbe vivo, invece ha lasciato due bambini senza padre e in mezzo alla strada. Grazie ad Antonina Azzoti che ci sta raccontando la storia di suo padre, Nicola Azzoti, una storia terribile che parla non solo di una famiglia, non solo di una bambina, ma di tutta un'epoca, di una terra e anche di questo paese. Senza dubbio parla anche di questo paese. Grazie a lei, grazie a Mauro Pescio, grazie ad Anita Panizza, a Luca Micheli e a Paolo Corleoni. Ora lasciamo la linea al GR e voi continuate a mandarci le vostre storie, linee d'ombra, @radio24.it, riascoltateli in podcast come e quando volete e noi torniamo domani a raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!